Una buonasera a Radio Città del Capo, Radio Metropolitana, in compagnia di Max Macchia per quanto riguarda una nuova esperienza, chiamiamola così, di 451 frammenti sonori, trasmissione che va in onda ogni domenica alle 23.30 circa, fino insomma alle 2 o qualcosa intorno a quell'ora, trasmissione che va in onda anche su 451 frammentisonori.noblogs.org, in maniera magari più comoda per chi insomma non ama le ore notturne o non può farle per varie ragioni, quindi rimando anche insomma al blog, tra l'altro curato da Lorenzo Albano. Io sono Max Macchia, come dicevo prima, questa sera non in compagnia di Eliseo Scarpa o viceversa, insomma, perché tante volte uno fa compagnia all'altro e di conseguenza insomma si crea una faccenda a due. Questa sera invece sarò in solitaria e probabilmente insomma domenica prossima, qua lo dico e qua lo nego, torneremo insomma in due per appunto esplorare nuove faccende. Per quanto riguarda questa sera 451, regressioni statiche. Che significa regressioni? Regredire, lo sappiamo più o meno tutti, è una sorta di ritorno, e questa sera magari declinato in chiave fantastica, sia perché riguarda forse un mondo del gioco dei bambini, sia in termini cronologici, perché molto spesso torneremo per quanto riguarda gli autori e gli artisti che tratteremo proprio agli arbori della loro infanzia, quando appunto immaginavano anche musiche che poi dopo 30 anni più o meno sono state fatte, più o meno questa dai 30 ai 40 è l'età che hanno i nostri personaggi, non tutti, perché comunque non metteremo soltanto giovani tra virgolette autori, ma faremo anche un riferimento insomma a un grosso personaggio, grosso perché ha dato insomma il via a forme di ritrovamento, e in questo senso quindi una regressione che appunto, come dire, si volge all'indietro, ma d'altra parte appunto è accompagnata da questa estasi che è data da una ricerca decisa anche verso sperimentazioni e verso nuovi modi poi di comporre quello che è una materia comunque che viene appunto immaginata come qualcosa di assolutamente nuovo. In questo senso quindi c'è un riferimento al mondo che fu, sonoro chiaramente o immaginifico, ma appunto con nuove possibilità, con nuove reinvenzioni. Più di una volta 451 ha fatto questo percorso in questi due o tre anni, ma probabilmente potremmo anche andare più indietro, visto che forse gli anni zero proprio partono come una sorta di regressione, prima con il ritrovamento di certe sonorità anni 80, anche abusate per molti aspetti, e per altri invece insomma reinventate, rimasticate e rese nuove per molti aspetti, non soltanto formali ma anche sostanziali. L'utilizzo di un immaginario non per forza riporta a un suono, seppur insomma lo può ricordare. Anni 70 che sono stati riveduti tante volte e di riferimento anche per personaggi che abbiamo trattato più di una volta, diremmo post cosmicheggianti, idee che nascono da certa ambient e traslata poi nelle nuove elettroniche del post glitch o di un pop che si ciba di spezie decisamente particolari, come un mondo etnico inventato, quasi un viaggio dentro la materia residenziana. Un po' questi ingredienti che hanno incondito e fatto di musiche che sembravano insomma semplicemente revivalistiche o qualcosa di tutt'altro, e si stanno sentendo i frutti in maniera anche piuttosto densa proprio in questi ultimi periodi, con appunto uscite anche decisamente importanti come On a Trick's Point Never, che questa sera andremo a trovare per vie parallele, DuckTales, una scena noise che è americana, che da Brooklyn è arrivata fino alla California, ritrovandosi il noise ma anche l'attitudine psichedeliche, fricadeliche, e reinventando insomma un mondo che sembrava definitivamente insomma ancorato alla storia, invece insomma è tornato a navigare anche acque piuttosto fresche, anche se appunto come dire, hanno sempre questa sorta di opalescenza queste musiche, cioè nel senso che non si vede bene dove possono andare, perché si vede male anche appunto e si sente male anche quello, nel vero senso della parola, quello che è un suono generato appunto proprio per creare una sorta di confusione sonora, che è data da grana e registrazioni particolari, appunto cercando un lo-fi che non è soltanto di maniera ma anche appunto di grana analogica, anche piuttosto grezzo nel tentativo appunto di ricreare una sorta di suono puro, che puro non è stato mai. D'altronde tutto quello che è musica è artificio, non potrebbe essere altrimenti, seppure insomma questo discorso è piuttosto complesso da approcciare, ma questa sera soprattutto sentiremo anche il perché di questo artificio, e si muovono appunto su un artificio, artificiosità, Gaslamp Killer, che dalla California trasformano il mondo cosmico virato anni 80 con la prima digitalizzazione della musica nei primi CD, ma anche della prima computer graphic, una sorta di Tron dentro però un'immagine che è anche quella dei 70, un gioco di riflessi molto interessante, quello di Gaslamp Killer, una regressione nel vero senso della parola appunto in quel periodo tra la fine dei 70 e i primissimi anni 80, proprio quelli appunto di Tron, e quelle possibilità date appunto da queste attitudini nuove, perché no, chiamiamole per quello che sono, in effetti stanno spostando il discorso, e capiremo anche perché non è semplice nostalgia, ma è veramente un viatico decisamente interessante e innovativo. Gaslamp Camp Killer. You won't hear me, Pig. Does that turn you on? I thought it might. What does that feel like? Does that feel gorgeous? I've never done that before. That nearly makes me thunder. That's amazing. Really amazing, darling. Yes, hold it there. Just there. We'll be right back. time. I got hands on both. Nah, I mean, I came over on a boat and shit. I was paddling, there was flying fish on the way and shit. It was fucking massive, yo. I was fucking bugging, yo. I was fucking hard, yo. Shit was off the track, you heard me? It was like. Beh, non si può di certo dire che la musica di Gaslam Killer, progettualità alquanto oscura per il momento, non si può di certo dire che non sia originale. È un stranissimo frullatore tra musica strumentale che proveniva da, sì, prima faceva riferimento agli anni 70, ma magari anche quelli filmici, o gli anni 70 cosmici, ma perché no, da certe psichedelie freeform degli anni 60 americane, o anche insomma europee in varia misura, anche qua la riscoperta di sonorità che possono partire dalla Germania pre-Krauta fino ad arrivare a una Francia prog, insomma luoghi dislocati anche nella geografia musicale anche dei decenni passati, dove insomma l'Inghilterra e gli Stati Uniti chiaramente la facevano insomma da padroni per quanto riguarda la pop music e il rock. Poi di fatto poi dentro si può trovare sicuramente un immaginario che ricorda un po' i B-movie, Z-movie anni 50 americani, tutta l'exploitation horror, una sorta di visione alla Frankenstein ma anche musicale, e dentro poi questi elementi, un trip hop allucinato, forse dentro un caleidoscopio psichedelico, perché sì, c'è la ripresa di sicuramente ritmiche che possono ricordare gli anni 90 trip hop, ma appunto decisamente psichedelizzati e con questa chiave etnica che così di sana pianta inventata, appunto come prima facevamo riferimento ai Residence, cosa che poi per altri versi in maniera anche piuttosto bislacca e opalescente con Gaslamp Killer insieme a Gonja Sufi si mischia ancora di più, un'eticità che forse c'è, forse non c'è, ma forse non è neanche più importante questa, è più l'invenzione musicale legata all'etnico, all'etnico di Gonja Sufi, già nome insomma che ci riporta all'Estremo Oriente. Andate a cercarvi le immagini sia di Gaslamp Killer che di Gonja Sufi, e insomma vi sembreranno perlomeno, quantomeno personaggi strani, anche siti veramente eccezionali con riferimenti culturali veramente di ogni tipo, trovate da Hendrix al Pianeta Selvaggio, film culto d'animazione avanguardia degli anni 70 francese, si passa veramente al tritacarne, o forse non è neanche più un tritacarne ma un frullatore cosmico, momenti di televisioni abbandonate, momenti di documentari sull'Africa, forse documentari proprio africani fatti da indigeni del posto. C'è veramente un riferimento culturale che non è neanche più postmoderno, ma va quasi a cercare un esoterismo culturale, una sorta di surrealismo, di ripercorso a ritroso, sì, ma per creare una un'estasi che è oggi e che addirittura potrebbe anche essere domani, perché no, visto che insomma sono decisamente innovative queste combinazioni, non è soltanto appunto la citazione che costituisce il tutto, l'ambaradan, tutta l'architettura, anzi la sostanza è proprio questa dialettica dell'assurdo con situazioni che sembrerebbero incomunicanti, in realtà appunto sia Gaslamp Killer che Gonja Sufi, in questo caso insieme le andiamo a ascoltare, riescono veramente a creare un spazio atemporale. Ecco quello, il discorso anche che accennavo prima, non è più nostalgia come per certi versi abbiamo vissuto negli anni zero con il recupero degli anni 80 e l'abuso di questi anche in termini di immaginario di recupero, quasi come appunto se non fosse passato il tempo, ma poi di fatto insomma anche piuttosto segnati e marcati in quel senso. Qua invece la ricerca veramente si atemporalizza proprio perché viene talmente approfondito certi legami con un passato che comunque non è mai quello ufficiale, non è mai quello che ci si aspetta. Quindi se si riprendono gli anni 80 si riprendono quelli della computer graphic dei primissimi anni 80, di forme anche commerciali di prime messe a mercato di strumentazioni che comunque vengono quasi recuperate come corpo esoterico, come quasi quella mitologia elettronica di progresso che poi non è stata mantenuta, che si è trasformata in kitsch. Qua appunto viene, come dire, rinverdita quell'idea insomma quasi mitica, quasi utopica che è anche il prodotto. Quindi anche in questo senso un capitalismo che viene rivisto, quasi viene rivoltato nel suo aspetto più assurdo anche, se vogliamo. E con appunto Gaslamp Killer nel progetto con Gonja Sufi si recuperano ancora di più questi anche lati di commercializzazione di quello che era World tempo fa, che poi è diventato Fusion, che adesso insomma o Melting Pot, che adesso insomma è di fatto globalizzazione. Gaslamp Camp Killer quindi con Gonja Sufi dall'album omonimo, per continuare questo strano percorso tra matti e tra sonorità nuove. We'll be right back. is down. Even if all this paint is down, they don't want me enough. They don't want my bed up. They don't want me enough. Che erano pazzi e di fatto insomma c'è della sana follia in tutto ciò, etnicità che non si capisce se siano vere, finte, deragliate sicuramente, assolutamente di nuova invenzione. E quindi da quello che Gaslamp Killer insieme a Gonja Sufi, a quello che Onetrix Point Never rilegge come musiche dentro Gonja Sufi, che tra l'altro progetto Rai Tank, mica tanto misconosciuta quella di Gonja Sufi, visto che stampa per un'etichetta che ormai è diventata vintage anch'essa, la Warp Record. In questo caso si tratta di remix, appunto, rilettura di Onetrix Point Never, splendida tra l'altro, di un pezzo di Gonja Sufi, e poi lo Slomo Remix, che appunto tratta sempre la materia di Gonja Sufi. Poi dopo una chicchetta per concludere questa prima parte di 451 frammenti sonori, regressioni estatiche, e che estasi o estasi sia.

Beh, abbiamo ritrovato un veramente personaggio come Toshi Ishiyanagi, che poi tra l'altro, come dire, serviva per omaggiare uno dei grandi creatori di immaginari altri come Toshi Tsumamoto. Veramente incredibile il lavoro che i due riescono a fare, uno musicalmente, l'altro con un'immagine che veramente riesce a anticipare di moltissimi anni quello che poi sarà il tape sperimentale degli anni Ottanta, la televisione o il cinema di flusso di Tetsuo ad esempio, ma non solo, anche di Decoder, degli esperimenti video cut-up di Barrocks, di Gisin, di certa cultura industriale. Veramente quindi un momento di visionarietà visiva, scusate gioco di parole, decisamente importanti, accompagnate da musiche che riescono a cibare queste immagini, riescono appunto ad arricchirle in maniera straordinaria. Toshi Tsumamoto, e invito tra l'altro, magari sul blog cercheremo anche di linkare queste immagini stupende, superbe. Atman dal 1975, e prima appunto all'inizio della trasmissione dicevo che avremmo trovato insomma personaggi anche oscuri che hanno dato il là a un certo qual modo rivedere una sorta di regressione statica. Qua c'è una tradizione giapponese, quindi secolare, che viene rivista in chiave psichedelica, in chiave sperimentale, cosmicheggiante, e veramente porta a una sorta di allucinazione visiva e sonica notevolissima. Da Toshi Tsumamoto, nel frattempo insomma aspettiamo il radiogiornale, che forse, da quello che ho da capire, probabilmente non ci sarà, ma noi continuiamo appunto la nostra trasmissione. Nel caso insomma intervenga il radiogiornale, non vi preoccupate se il pezzo sfumerà, poi lo riprenderemo dopo. Da Davistic Orchestra, e appunto parliamo dopo di questa splendida progettualità, a questo punto invece decisamente odierna, dal 1975 ci ritrasportiamo nel 2017 con questo gioiello di Davistic Orchestra. Lavistic Orchestra da Document 01, una delle formazioni più interessanti, dei progetti sicuramente più innovativi di questi giorni, da Lavistic, che si rifanno, sì, in una certa qual maniera, il nome già lo dice, a vecchie esperienze avanguardistiche, soprattutto per quanto riguarda l'immaginario iconografico, o iconoclasta in questo caso del Dada, del grande movimento d'avanguardia. Musicalmente hanno forti connotati con quel noise dilatato che diventa appunto una sorta di viatico anche orrorifico dentro meandri surreal Dada. A questo punto ci siamo sentiti Dada Fish Stick, appunto dal Document 01, è uscito da poco anche lo 02, altrettanto interessante magari per molti aspetti più noise rispetto a questo lavoro, a questo EP di due pezzi, appunto Strung Valve Check Out e Dada Fish Sticks che abbiamo appena ascoltato. KGB Man, altro progettualità decisamente retroattiva, anch'esso come Onetrix Point Never, che abbiamo già ascoltato nella rilettura di Gonja Sufi, riprende sonorità cosmiche e immaginari persi nel tempo, come ad esempio nelle sue sperimentazioni computeristiche e video, ad esempio ci sono degli spot commerciali musicati ripresi dalla fine degli anni 70, primi anni 80. Martinetti's Home Computer ad esempio è una delle cose che potete vedere anche cercandole semplicemente su YouTube, e non cito a caso YouTube, anche se ovviamente non ha bisogno di pubblicità, ma magari qua 451 frammenti sonori, non so quanta pubblicità positiva si possa fare appunto per il programma celeberrimo. Appunto su YouTube potete trovare Martinetti's di Onetrix Point Never, o comunque legato alle sue progettualità, cercate come Martinetti's, sicuramente lo troverete e vedrete insomma una ricostruzione decisamente così atemporale di quello che il trattamento di una pubblicità sul home computer, sui primi PC, insomma, casalinghi pubblicizzati per rivoluzionare anche la famiglia, quindi in questo senso anche il discorso di prima, questo anche esoterismo che c'è dentro questa merce, che perlomeno viene rivisto in tal luce, una faccia sicuramente anche non proprio rassicurante, perché appunto non è nostalgia, ma è un recupero anche con elementi insomma decisamente nuovi di trattamento sonoro, sia di colonna sonora, di quel immaginario sepolto nel tempo, e sia quel lato kitsch che però nasconde anche quell'utopia, strana utopia appunto del progresso tecnologico che era riscontrabile ad esempio prima in Tron, che abbiamo citato, il primo chiaramente, il secondo vabbè, semplice operazione commerciale direi, ma con KGB Man, il nome già un po' dice tutto su ritrovare e rendere retroattivo qualcosa, in questo caso appunto il servizio segreto celeberrimo, servizio segreto sovietico, rivisto in una chiave assurdista, dentro appunto un noir di capacità cosmicheggianti. KGB Man, che altro non sarebbe che una progettualità parallela di Onetrix Point Never, per continuare appunto il nostro viaggio dentro le regressioni estatiche. Thank you. Trans-Am ascoltati da T.A., Trans-Am, poi appunto disco omonimo. Beh, se dobbiamo mettere dentro e mettere a fuoco uno dei gruppi, delle progettualità più importanti per la retroattività, per questo recupero critico anche di certe sonorità che vengono riviste, reinventate, sicuramente Trans-Am come esperienza tra la fine degli anni 90 e gli anni 0 è stata sicuramente anche un episodio piuttosto così curioso in un primo momento, perché quando appunto tornarono a prendere una sorta di elettro però mischiata anche con un immaginario hard rock o hard cosmicheggiante vicino a Hawking o a Faust e ha appunto visioni elettrofuturistiche, ma intorno alla fine dei 90 suscitarono una, come dire, perlomeno una certa curiosità. Qualcuno insomma ha anche detratto il percorso musicale di Trans-Am, ma tant'è che hanno creato di fatto veramente un nuovo immaginario retroattivo, cioè si può fare un passo indietro così in maniera semplicistica, ve lo annuncio così, per farne due avanti, e probabilmente con Trans-Am si è veramente fatto questo tipo di discorso. E se con Trans-Am la retroattività si tinge di elettrofuturismo, come dicevo prima, con Spectrum e Sonic Boom di ex Spectrum 3 Memoria, si va a trovare quella psichedelia che si fonde con il minimalismo alla Monte Young, con il suono infinito della Dream House, con il rumore di certo John Cale, con tutta quella anche matrice underground ripescata e riveduta di Space Age, di psichedelie astruse come quelle poi riprese da Silver Apple, anche stupendo tra l'altro la progettualità di Spectrum insieme a quello che rimaneva di Silver Apple qualche anno fa. Quindi un modo di reinventare una matrice sonora che affonda dai primi esperimenti degli anni 50-60, anche avanguardistiche, non soltanto insomma legata alla Space Age, quindi alle musiche elevator, come le chiamano in America, che poi qua insomma sono state passate come lounge, che poi appunto non erano soltanto musiche di trattenimento, anzi per molti aspetti sperimentali. Un chiaro riferimento ad esempio anche in questo album alla BBC Recording del Dottor Who, ad esempio, proprio una dedica alla grande Delia Derbyshire, prima donna al synth. E quindi con Spectrum si ritrova, e come, quell'attitudine sperimentale dello spazio, forse mai perduta, ma qua appunto rinverdita stupendamente, anche appunto reinventata. Ce l'andiamo appunto a sentire Spectrum dal suo Forever Alien, per sempre veramente alieni, e qua c'è la temporalità che diventa veramente strumento incredibile per voli fantastici, e Spectrum insomma ci ha abituato bene in questi anni. Oh. autentico to the force questo di My Cat is an Alien, una delle più belle esperienze italiane che hanno appunto ripreso per molti versi sonorità cosmicheggianti, drone music portata male. Prima citavo ad esempio il primo John Cale, quello del periodo vicino alla Dream House della Monte Young, dei suoi primissimi insomma lavori underground, poi tra l'altro ristampati per la Table of Element. Sicuramente My Cat is an Alien conoscono bene quei lavori, come conoscono buona parte della drone music chitarristica ad esempio di Glen Branca, di Rhys Chatham. In questo caso quindi un suono che viene ripercorso attraverso una forma che prende tanto da un math rock e da un post rock decisamente creativo degli anni 90. Sono già un bel po' di anni che i due Opalio si fanno sentire, Maurizio e Roberto appunto, che portano avanti una progettualità decisamente interessante, non soltanto per il discorso di retroattività e di regressione statica, seppur l'estasi qua è veramente raggiunta faticosamente, una sorta appunto di viatico stordente, una psichedelia portata a un eccesso rumoristico, con quell'inserto appunto math rock molto interessante che riusciva insomma a far spostare la faccenda in maniera piuttosto intelligente e anche musicalmente insomma fresca. È un pezzo che è Alien Cat Attack, che viene dal 1999, quindi in epoca diciamo non sospetta per retroattività, anzi decisamente post, come d'altronde poi per tanti versi è stato anche associato il nome di My Cat is an Alien, appunto post rock. E con loro appunto ci andiamo a trovare in quel meandro statico roccheggiante, hard roccheggiante anche per molti versi. Se con gli italiani My Cat is an Alien, tra l'altro nome stupendo, siamo andati a trovare una forma arty del hard rock psichedelico, cosmicheggiante, dronante, con Flaming Lips invece si va a trovare forse una forma decisamente più rock per certi versi, ma non in questo caso, anche pop, pop sinfonico ha attraversato le corde anche di Flaming Lips, che trattano il rock come i Residents trattano l'avanguardia, in maniera decisamente surreale, e appunto nelle operazioni che non vanno verso il pop, che comunque sono decisamente egregie per anche in questo caso per i Flaming Lips, ci sono anche operazioni perlomeno curiose, se non addirittura sperimentali, come l'album Zakira, 4 CD che dovrebbero essere suonati contemporaneamente, cosa quasi impossibile, perché è impossibile sincronizzare i 4 CD, e anche quando si pensa di averlo fatto, poi di fatto ci sono sempre delle sfasature, quindi un disco che non suona mai uguale, o forse 4 dischi che suonano in maniera autonoma e poi ogni tanto possono essere uniti, insomma, un'operazione piuttosto ardita. Noi ce l'andiamo invece a prendere dal primo periodo decisamente hard psichedelico, diventano famosi per la ripresa appunto di un immaginario 70 hard decisamente psichedelizzato, con Telepath e Surgery escono anche con 23 minuti di pezzo, che anticipa anche per certi versi buona parte del post rock. Siamo intorno alla fine degli anni 80. 90. E il pezzo è decisamente strano perché c'è un vitalismo che viene rockeggiante, hard rockeggiante, che viene poi ricomposto in studio con momenti di accelerazione, momenti di cut up sonoro, inserimenti di campionamenti, una sorta di patchwork di hard psichedelico con tanto anche di comunicatività rock che Flaming Lips non hanno mai smentito, che portano insomma questa regressione statica che è sempre stata poi perseguita anche appunto nei momenti più comunicativi di Flaming Lips per tutta la loro carriera, anche insomma nei nostri giorni, visto che stampano ancora e stampano anche cose decisamente egregie. Flaming Lips quindi, per chiudere anche in maniera differente, quindi rompiamo in un flusso statico, magari più ambientale per questa seconda parte, che in realtà non c'è stata, è stata tutta una prima parte, un'unica parte di 451 frammenti sonori, tutta ad un fiato perché non è andato il radiogiornale, evidentemente insomma il periodo e questi giorni insomma prevedono altri tipi di percorsi, quindi c'è un dibattito su Radio Popolare, tra l'altro anche molto interessante. Speriamo di non essere stati fuorvianti, o forse speriamo anche di esserlo stato, nel senso che poi appunto si può ritornare in maniera critica sui giorni insomma particolarissimi che si stanno vivendo, che vivremo e come sentiremo e avremo modo anche di commentare, non soltanto tramite la musica. Qua 451 frammenti sonori, chiaramente insomma la musica ci serve come veicolo, oppure la musica veicola di fatto messaggi, criticità, nuovi modi insomma di vedere, prospettive e quant'altro insomma dentro il nostro bagaglio, chiamiamolo così, di 451 bagaglio, speriamo stellare, o perlomeno insomma di visione alterato, alternativa, se non addirittura per certi versi antagonista, perlomeno con le musiche, con i suoni insomma che si sentono in giro, che non sono soltanto quelli strettamente insomma legati al mondo delle sette note o della tonalità, ma lì appunto andiamo a sconfinare quello che poi di fatto facciamo a 451 frammenti sonori. Io vi saluto con questa lunga presentazione finale, un lungo anche saluto e commiato, vi rimando a domenica prossima, per il momento Flaming Lips, e poi appunto una settimana chissà di passione, vedremo. Domenica prossima da Max Macchia, ciao, fate i bravi, fate insomma fate un po', fate critici, ecco, questo giro ve la mando così, come minimo. Ciao. We'll be right back. Oh,